Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Come sapete, ce lo siamo detti tante volte, la logistica è una delle chiavi di volta di tutti i nuovi modelli di distribuzione online. Oggi parliamo con Francesco Montuolo, che è l'amministratore delegato di MLK Deliveries, di una nuova modalità o quantomeno di una modalità innovativa di distribuzione. Buongiorno Francesco, benvenuto ai microfoni di Radio Next. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Francesco, MLK Deliveries, una joint venture tra chi e chi e che cosa fa? MLK Deliveries è, come dicevi giustamente, la joint venture tra Poste Italiane e Milkman. Milkman è un'azienda tecnologica che ha messo a punto questa modalità innovativa per organizzare le consegne dell'ultimo miglio, che Poste Italiane ha ritenuto una interessante iniziativa appunto nell'ambito del delivery, e quindi è stata costituita questa joint venture che è 70% Poste Italiane, 30% Milkman, e da aprile è stata costituita e io sono l'amministratore delegato. Allora, Milkman si prende in carico la distribuzione del prodotto acquistato tendenzialmente online e portato a casa proprio all'ultimo miglio, sia dal negozio o dal centro di distribuzione fino a casa del cliente. Questo immagino, come dire, per cercare di migliorare la percezione dell'experience, visto che ci sono grandi player online che hanno creato delle promise con un'asticella molto elevata: consegna in un'ora, consegna in 2 ore, consegna in 24 ore, no? Sì, l'idea è proprio quella di rivoluzionare un po' il mondo della consegna dell'ultimo miglio e di dare al destinatario la possibilità di scegliere quando e dove, a che ora ricevere la spedizione. Tutti abbiamo l'esperienza di stare a casa ad aspettare il corriere che passa ad un orario indefinito. Sì. Ecco, noi facciamo un servizio completamente diverso. È possibile già nella fase di checkout del merchant, sì, scegliere l'orario in cui si vuole ricevere la spedizione, o se non è possibile farlo nel sito del merchant, noi per ogni spedizione che ci viene affidata mandiamo un messaggio al destinatario e diciamo: abbiamo una consegna per te, verremo domani in questa fascia oraria, ma a quel punto il cliente può decidere di riprogrammare la spedizione in un altro giorno, oppure scegliere una fascia oraria fino alla precisione di mezz'ora e creare un vero e proprio appuntamento con il corriere. Man mano noi aggiorneremo la nostra posizione e il tempo di arrivo fino agli ultimi 5 minuti in cui diciamo: stiamo parcheggiando, siamo sotto casa tua, stiamo arrivando. Questo è un po' una rivoluzione, cambia, certo, il paradigma, no? Fino ad oggi era il merchant che decideva la logistica della spedizione, certo, e il destinatario un po', diciamo, la subiva. In questo modo il destinatario diventa parte attiva, può scegliere quando avere la spedizione, come averla, e fino all'ultimo minuto, se ha un contrattempo, deve uscire, non è più in casa, la possibilità tramite l'app che noi gli mettiamo a disposizione di riprogrammare la consegna. Quindi anche se ha deciso un appuntamento per un certo giorno, può fino all'ultimo minuto riprogrammarlo. Senti, mi sembra di intelligere, cioè di capire dalle tue parole, che, come dire, avete costruito attorno all'esigenza del cliente, quindi demand driven services, servizi costruiti attorno alle esigenze del cliente, la customer centricity di cui tanto si è parlato in questi anni, ma che spesso è semplicemente una bella parola che rimane su delle slide di PowerPoint, ma che poi trova difficoltà ad essere applicata. Voi come avete fatto a raccogliere, a evidenziare questo bisogno, e come avete riprogettato un'azienda attorno alle esigenze del cliente? Sai, voglio dire, Poste Italiane ha un'esperienza oramai consolidata, leader di settore nel mercato del delivery, e questa era un'esigenza che viene fuori costantemente, quella del cliente che oramai considera la consegna come parte dell'esperienza di acquisto. Quindi io non mi limito ad acquistare un bene di cui sono soddisfatto; per essere pienamente soddisfatto anche il delivery di questo bene deve essere all'altezza delle mie aspettative. Quindi da qui la necessità di dare al cliente finale tutte le opzioni, quindi lo voglio ricevere a casa, voglio andarlo a ritirare in un luogo fisico sì. di prossimità che sia comodo per me sul percorso casa ufficio, la possibilità di programmare la consegna e quindi di decidere io quando lo voglio, a che ora lo voglio, non che devo stare a casa ad aspettare il corriere che arriva. Questo era una serie di sollecitazioni che dai clienti venivano in continuazione e noi le abbiamo colte grazie alla tecnologia, quindi la tecnologia che rende disponibile tutto questo, perché l'algoritmo che c'è alla base di tutto questo di fatto ci consente di organizzare le emissioni dei corrieri, come diciamo noi, quindi l'ultimo miglio, in maniera intelligente, tenendo conto quindi di tutti gli appuntamenti che ci sono sul percorso. A questo punto l'autista non si organizza più da solo il giro, ma è guidato passo passo a secondo dei vincoli che hanno le varie consegne che deve effettuare. Quindi è un, come dire, è un routing dinamico, perché a seconda poi delle richieste da parte dei clienti che magari strada facendo possono fare dei cambiamenti o possono richiedere quantomeno dei cambiamenti, c'è la possibilità anche di rerouting e di riprogettare tutto il giro dello spedizioniere. Bravo, assolutamente sì, infatti è proprio un routing dinamico che viene aggiornato continuamente, perché il cliente fino all'ultimo minuto ha la possibilità di riprogrammare la consegna in un altro orario o addirittura in un altro giorno, quindi l'algoritmo aggiorna costantemente il routing del corriere, ottimizzandolo per fare in modo che sia in grado di rispettare tutti gli appuntamenti e faccia meno chilometri possibili. Come fa un'azienda produttrice, un manufacturer o anche un'azienda di trasformazione a, come dire, a usufruire dei vostri servizi? Se domani io volessi aprire un nuovo canale, come faccio a rivolgermi a voi? In realtà è molto semplice, perché questa è un'offerta che è diciamo all'interno dell'offerta di delivery di Poste, quindi diciamo se rivolgendosi a Poste Italiane direttamente, questa offerta è disponibile nell'offerta Poste Delivery Business, che è il prodotto di consegna di Poste Italiane. Poi basterà integrare il proprio sito con il nostro sistema e quindi gli appuntamenti potranno essere venduti dal merchant direttamente, offerti dal merchant direttamente sul proprio sito, oppure se il merchant non vuole avere questo livello di integrazione, siamo noi per ogni spedizione che ci viene poi affidata a contattare il cliente destinatario e a dargli la possibilità tramite l'app di vivere questa esperienza appunto di consegna. Francesco, il vostro servizio è competitivo da un punto di vista del pricing rispetto ai competitor o costa di più per questa, come dire, quality premium service che voi offrite? Ma guarda, il servizio è assolutamente competitivo, perché molte delle opzioni che ti ho raccontato sono assolutamente gratuite, quindi la possibilità di riprogrammare il giorno, la possibilità di decidere un altro luogo di consegna, la possibilità di cambiare orario, sono tutte opzioni che sono gratuite. Le opzioni a pagamento sono quelle sullo schedule delivery, quindi sull'appuntamento. Sì. Ovviamente più stretta è la fascia dell'appuntamento, la finestra di tempo, più il costo aumenta. Ok, allora vorrei adesso a questo punto aprire un po' una finestra e parlare un po' più in generale del mondo dell'e-commerce in Italia e di come questo, come dire, possa essere nell'ottica di una, speriamo, insomma, incrociamo le dita, di un altro parziale lockdown o di una limitazione degli spostamenti, possa essere una valvola di sfogo o quantomeno un canale che supporti e recuperi parte del business che magari alcune aziende perderanno. Senti, secondo te quali sono i freni, quali sono le limitazioni, gli ostacoli che lo sviluppo dell'e-commerce o l'e-commerce in generale in Italia sta vivendo, lato aziende, non lato consumatori, perché abbiamo visto che, insomma, questo l'abbiamo visto durante il lockdown di aprile e maggio, no? Quando le persone, il cliente finale è costretto, alla fine, come dire, l'acquisto online lo fa, no? Ma perché tante aziende ancora hanno remore o non sono ancora pronte? Dal tuo punto di vista, insomma, dal tuo punto di osservazione privilegiato? Beh, guarda, diciamo che oramai quello delle vendite online è un mondo con cui, come giustamente dicevi tu, tutti devono fare i conti. Alcuni sono più avanti, altri sono più indietro. Diciamo che quelli che hanno puntato su una rete fisica, quindi parliamo delle grandi reti di negozi fisici, ovviamente hanno una certa remora sull'online, lo considerano nella logica della multicanalità, però non hanno puntato essenzialmente su quel canale, dovendo ovviamente difendere una rete di negozi fisici. I piccoli negozi di prossimità, proprio perché avevano un bacino di utenza di prossimità, non si sono attrezzati. C'è da dire che questa emergenza sta cambiando un po' tutto, nel senso che stiamo assistendo al fatto che molti negozi di prossimità si stanno attrezzando anche in maniera artigianale con l'online, perché l'esigenza, la costrizione ha fatto sì che questi si organizzassero, così come le grandi reti di retailers che fino a questo momento avevano affrontato timidamente l'online, adesso lo stanno facendo, e devo dire lo stanno facendo anche nel modo giusto, quindi con un occhio al consumatore, all'esigenza del cliente. Quindi noi abbiamo visto durante il lockdown un'esplosione delle richieste di delivery, proprio perché a questo punto c'era un'esigenza che guidava, e questo è uno scalino che abbiamo fatto e che sicuramente consoliderà nel futuro. Questo cambiamento del consumatore o del cliente finale si porta dietro anche delle aspettative, no? Nei confronti delle aziende che fanno comunque fatica a starci dietro, aziende che si ritrovano magari adesso, non avendo sfruttato questi 7 mesi per quantomeno indirizzare una strategia o l'apertura di nuovi canali di distribuzione, rischiano di ritrovarsi nuovamente in forte difficoltà. Ma allora qual è il mindset corretto? Come si deve affrontare questo cambiamento, secondo te? Innanzitutto bisogna avere un atteggiamento nei confronti della logistica come un pezzo fondamentale dell'esperienza di acquisto. Non sempre è stato così, quindi è sempre stato un servizio dell'azienda, e mai, come dire, una leva di differenziazione. Esatto, invece adesso è una leva vera e propria di differenziazione, quindi, ma questo devo dire, molte aziende lo hanno capito, voglio dire, noi abbiamo tutta una serie di clienti che hanno aderito alla nostra proposta proprio perché vogliono dare un'esperienza differenziata, differenziante ai loro clienti. Quindi la logistica è parte dell'experience del cliente. Un cliente non sarà più solo soddisfatto perché ha comprato un buon prodotto ad un buon prezzo, se poi ha avuto una cattiva esperienza nella delivery perché è stata complicata, è andata a vuoto, poi devo andare molto lontano a ritirare la spedizione che non è andata a buon fine. Questo fa parte di un'esperienza che poi diventa negativa complessivamente. Certo. Per concludere, allora, Francesco Montuolo, secondo te la logistica come si affronta all'interno di un'azienda che normalmente è abituata a una delivery B2B, e quindi a muovere pallet e a caricare bilici, e da domani magari si trova a mandare il pacchetto 10x15x20 al cliente? Deve farlo, uno, mettendo il cliente al centro, quindi pensando a cosa il cliente vuole avere da questa esperienza. Due, affidandosi a chi questo mestiere lo sa fare, a chi ha investito in tecnologia e conosce esattamente e può guidarli nel mettere in piedi una logistica che non sia solo appunto quello di preparare i pacchi e spedirli, ma di fare in modo che questa sia un'estensione del loro servizio. Vedi, nel mondo grocery i supermercati non si confrontavano prima con l'idea di dover consegnare le spese a casa, no? Quindi quello è un mondo che ha fatto dei cambiamenti radicali e che oggi ragiona in base all'esperienza del cliente, e la spesa a casa la devi ricevere quando sei a casa, in un momento certo in cui la puoi ricevere. Quindi lì sono stati fatti grandi passi avanti, devo dire, e noi siamo attori di questo cambiamento. Secondo te quanto è importante in percentuale nel successo di un canale di vendita online la logistica? Se dovessi dare, so che sei di parte, per carità, però se volessimo dare un punteggio alla logistica. Guarda, voglio essere intellettualmente onesto, però non riesco ad affidargli meno del 50%, nel senso che metà lo fa sicuramente il prodotto e la qualità del prodotto e il prezzo che deve essere giusto, ma l'altra metà lo fa il modo in cui poi ricevo e entro in possesso del bene che ho acquistato. E allora ringraziamo Francesco Montuolo, amministratore delegato di MLK Deliveries, per essere stato con noi ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Francesco. Grazie a te, grazie a tutti. Arrivederci. E alla fine di questa puntata ci rimane in mano una storia da approfondire, che possiamo ascoltare per intero nel nostro podcast del lunedì, oppure ovviamente con una nuova puntata di Radio Next la domenica alle 13.45. Domenica prossima noi ci incontreremo di nuovo. Io vi ricordo radionext@radio24.it, il nostro indirizzo di mail per qualsiasi ulteriore domanda, approfondimento, critica oppure proposta. Ci vediamo molto presto. Buona giornata da Pepe Moder.